Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati al nostro settimanale appuntamento con la stampa periodica. Vediamo che cosa c'è di interessante da leggere, da scoprire, da curiosare nei settimanali, nei periodici in generale che sono in vendita, italiani e stranieri. Allora, innanzitutto una cosa che mi ha incuriosito su Famiglia Cristiana. Non so se vi è mai capitato di mentire sul fatto di avere letto o non letto un libro. Una cosa che può accadere specialmente quando il libro in questo è un classico. Beh, in Inghilterra si sono messi a fare una ricerca su quanto la gente dice bugie appunto sui libri che ha letto, specialmente quando si tratta di cosiddetti classici, cioè libri che si presume uno deve leggere nella sua vita. Allora, hanno scoperto che il 42% degli inglesi sostiene di aver letto 1984 di Orwell, ma non l'ha fatto, il 31% Guerra e Pace di Tolstoi, il 25% L'Ulisse di Joyce e addirittura uno su quattro mente sul fatto di aver letto la Bibbia. Poi via via le percentuali diminuiscono, si trova la Madame Bovary di Flaubert, un difficile libro di Stephen Hawking, Dal Big Bang ai buchi neri, difficile quanto celebre, e poi scendiamo a I figli della mezzanotte di Salman Rushdie, ma qui siamo su percentuali che oscillano tra il 6 e il 16%. Ancora compare Proust con Alla ricerca del tempo perduto tra i libri su cui si mente più volentieri. Complessivamente il risultato di questo sondaggio inglese, il 65% dei lettori interpellati ammette di avere detto in merito più di una bugia, soprattutto appunto a proposito di Guerra e Pace oppure L'Ulisse di Joyce e anche la Bibbia. Sono mancanze imperdonabili, si chiede Famiglia Cristiana, oppure si può dire di essere colti anche se nella nostra formazione, nelle nostre letture manca qualcuno di questi volumi? Hanno risposto a questa domanda del settimanale Valerio Massimo Manfredi e Piero Dorfles. Manfredi è abbastanza tollerante, dice: beh, in realtà molti libri, molti di questi classici dipendono poi dalle mode, ci sono dei libri che vanno molto di moda, vengono considerati irrinunciabili in un certo periodo e poi non lo sono più. Dorfles anche prende più di mira, diciamo, l'ipocrisia che porta a dire di aver letto un libro. Ad esempio lui dice: quasi nessuno ha letto tutto vuol dire i due volumi dell'Uomo senza qualità di Musil e probabilmente anche Joyce con altre opere come Finnegan's Wake non è stato poi così letto tanto quanto almeno se ne parla. Ma è curioso notare come appunto si possa mentire anche su questo, per questa convenzione sociale, per non far vedere, per non ammettere di aver letto un libro che si suppone da dover leggere in qualche modo, da sapere. Allora, parliamo ancora di libri, ma da una prospettiva completamente diversa, perché su Nouvel Observateur questa settimana c'è un servizio dedicato all'ebook, cioè a quello che dovrebbe essere, potrà essere il libro del nostro futuro prossimo. L'ebook sostanzialmente è un po' come l'idea dell'iPod per la musica: uno possiede uno strumento con uno schermo abbastanza grande da poter contenere una pagina o buona parte di una pagina di un libro e collegandosi con internet oppure facendo uso della memoria disponibile in questo supporto può leggere, può portare con sé una biblioteca intera. Se ne occupa appunto Jérôme Garcin su Nouvel Observateur di questa settimana, raccontandoci che gli editori si stanno attrezzando, si stanno preparando a questo cambiamento. Ci sono già diverse decine di migliaia di titoli disponibili normalmente sui siti internet o in vendita presso chi già gestisce l'editoria e la vendita online di libri. Ma si chiede anche Garcin, bisognerà domandarsi che cosa succederà nel futuro delle case editrici, cioè delle pratiche commerciali della distribuzione, ad esempio, o anche degli stessi diritti d'autore, perché evidentemente sappiamo che quando un prodotto culturale diventa digitale, è molto facile, lo abbiamo visto con la musica, che diventi anche facilmente copiabile, che facilmente i suoi autori poi non si vedano riconosciuti i diritti. L'articolo ci fa anche sapere, tra l'altro, che in questo momento, almeno in Francia, sfruttando anche una misura, un regime fiscale più favorevole, la fabbricazione, la messa a punto di un libro digitale, di un libro in formato digitale, è meno cara e meno costosa che quella di un libro vero e proprio. Si sfrutta anche effettivamente un'aliquota IVA che colpisce meno pesantemente appunto la produzione digitale. Vedremo se il libro digitale diventerà un'abitudine, come è diventata la musica digitale. Qui sul Nouvel Observateur vengono intervistati diversi scrittori e liberi professionisti che si dichiarano tutti abbastanza favorevoli, soprattutto per la estrema comodità di avere tanti libri su un solo supporto e quindi non essere obbligati a muovere fisicamente un gran numero di libri. Restiamo in qualche modo in Francia, perché la Francia è anche il paese dove più virulentemente è esploso, si è manifestato il cosiddetto boss napping. Cosa significa boss napping? Significa più o meno il rapimento o comunque la segregazione perlomeno temporanea del dirigente, del capo, e di questa tendenza preoccupante si occupa Newsweek con una corrispondenza complessivamente europea. Si dice tra l'altro in questo articolo che è firmato da Tracy McNichol, che questa tattica appunto di sequestrare, di ridurre quantomeno in una cattività per limitata i dirigenti, sembra funzionare, perché dice appunto la pena che viene applicata per avere tenuto in ostaggio il proprio capo è 5 anni di prigione, ma in realtà le autorità non hanno mai dato corso a questo tipo di denunce, e per lo più le stesse aziende che hanno subito, che sono state poi destinatarie di queste misure, non hanno preso, non hanno dato corso neppure loro a denunce penali. Il sentimento popolare è abbastanza a favore dei boss snappers, abbastanza vuol dire nell'ordine del 55-60%, in un sondaggio infatti riferito proprio da Newsweek si legge che il 55% degli intervistati si è dichiarato, pur prendendo le distanze da questa misura, da questo tipo di azioni, si è dichiarato abbastanza comprensivo e ha definito queste azioni come giustificate. Si ricorda sempre in questo articolo di Tracy McNichol che sembra esserci una corrispondenza tra la congiuntura economica e questo atteggiamento nei confronti dei dirigenti, dei capi, perché infatti si dice che il boss napping aveva avuto già una sua forma negli anni 70, quando il boom, che era durato per 3 decenni e che aveva appunto fatto seguito alla fine della Seconda Guerra Mondiale, era stato interrotto dallo shock petrolifero e dalla conseguente crisi economica. Quindi negli anni 70 c'erano già stati i primi segnali di boss napping. Poi questo fenomeno non si è più verificato e abbiamo visto che invece è tornato d'attualità soprattutto in Francia, proprio in coincidenza della nuova crisi del 2008, crisi finanziaria e poi crisi economica del 2008-2009. Restiamo su Newsweek perché c'è una scoperta scientifica che abbastanza interessante e mi ha ricordato anche quanto avevamo segnalato a proposito del mensile 24 del Sole 24 Ore già nelle puntate scorse. Ricorderete di questi studiosi che stanno cercando di fare analisi sul cervello, sul nostro pensiero, in modo da poter capire che cosa pensiamo semplicemente collegando degli elettrodi, insomma delle macchine particolari alla testa, e così riuscire a rappresentare i pensieri o addirittura a pensare una musica e a farla eseguire. Questa è un'altra delle novità a cui si sta lavorando. Bene, c'è un ulteriore filone di questo studio, di questi studi neurologici, ne riferisce appunto Newsweek, ed è eliminare i brutti ricordi. Come si fa? Beh, per il momento ci si sta lavorando, non è ancora proprio possibile del tutto, ma qui si racconta racconta da parte di Claudia Kalb sul numero di Newsweek di questo studioso, si chiama Karim Nader, il quale, avendo lavorato con numerosi esperimenti condotti con le cavie di laboratorio, è riuscito a modificare il tipo di dolorosità o meno collegata a un ricordo, quindi con le cavie. Più in dettaglio qui si spiega che appunto la nostra memoria, come probabilmente sapete, è composta da sia una memoria a breve termine, che è quella che poi ci serve per condurre gli atti più banali della vita quotidiana, e poi questa memoria a lungo termine, che si è sempre ritenuta poco modificabile. Ecco, quello che invece stupisce di questi studi è che proprio questo tipo di ricordi, cioè quelli più profondi, quelli più radicati, potrebbero essere modificati con una combinazione di, almeno questo sta funzionando con le cavie, terapia farmacologica e poi un'adeguata terapia invece più di tipo psicologico. Da quello che si capisce da Claudia Kolb non è ancora una cosa già disponibile, ma potrebbe esserlo presto. Chiaramente le sue applicazioni possono essere molto utili in tutti quei casi in cui i disturbi generati da ricordi molto dolorosi, pensiamo a ricordi di guerra, ricordi molto dolorosi per l'individuo, potrebbero essere in qualche modo rimossi o comunque la loro pericolosità potrebbe essere ridotta. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, stavamo parlando di progressi nella neurologia, nella possibilità di modificare i nostri ricordi. C'è un altro filone della medicina interessante, viene segnalato da Novel Observatore perché c'è stato un congresso di allergologi. È un sentire comune che negli ultimi anni, negli ultimi decenni, ci sia stata una vera e propria esplosione delle allergie, e in effetti anche Fabien Gruyère sulla Nouvel Observateur di questa settimana conferma, appunto avendo sentito gli allergologi riuniti in Francia, che è quello che sta effettivamente accadendo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, tra l'altro, l'allergia figura al quarto posto tra le malattie più frequenti. Tra i colpevoli presunti o veri di questa esplosione delle allergie figura l'inquinamento dovuto ai trasporti, ma anche l'inquinamento cosiddetto indoor, cioè quello degli appartamenti, degli uffici. Perché? Perché siamo quotidianamente a contatto con colle, vernici, pitture, materiali da costruzione, non tutti possono essere ben tollerati dal nostro organismo. Questo e anche gli stessi cosmetici potrebbe influire sulla nostra capacità, sulla nostra predisposizione a diventare allergici. Tra l'altro Gruyère fa un piccolo catalogo di cose che sono considerate comunque a rischio, che comunque gli allergologi stanno studiando. Figurano persino le bocce che vengono usate per appunto il gioco delle bocce in piazza, in Francia si chiamano pétanque, non vanno bene perché contengono del nickel e quindi potrebbero favorire pure le allergie. E quindi quello che invece si dà di positivo, lo dà proprio come ultimo punto, dice finalmente anche una notizia positiva, il fatto che si installino molte meno moquette in questo momento sta facendo ridurre la nostra esposizione, la nostra predisposizione all'allergia per gli acari. Questa è la buona notizia che Gruyère mette in coda alle Nouvelle Observateur su questa esplosione delle allergie. E allora, visto che parliamo di Francia, parliamo di paesi stranieri, vi voglio segnalare una cosa che ho visto giovedì sul magazine del Corriere della Sera a proposito del voto alle elezioni europee. Si voterà, come sapete, tra il 4 e il 7 di giugno nei vari paesi della UE per il rinnovo del Parlamento europeo. In Italia se ne sta parlando molto anche in questi giorni per diversi motivi. L'editoriale affidato ad Angelo Panebianco contiene una sottolineatura di un aspetto di cui forse si è parlato meno, cioè che le elezioni per il Parlamento europeo sono in realtà le uniche nelle quali, scrive Panebianco, non è in gioco il controllo del governo, ed essendo elezioni in questo modo depotenziate, i partiti le utilizzano per saggiare la propria popolarità. A loro volta, continua Pane Bianco, molti elettori, non tutti, ma moltissimi, sono indotti a comportarsi diversamente da come farebbero in elezioni nazionali o locali. Una parte sceglie di non votare perché appunto c'è una scarsa posta in gioco, non c'è un'elezione di un governo diretto. Un'altra parte, sentendosi libera dalle costrizioni che incombono sugli elettori nelle competizioni in cui è in palio il governo, sceglie di votare per partiti per i quali non voterebbe mai in elezioni nazionali o locali. Mancando infine la posta del governo, non c'è neppure la convenienza al cosiddetto voto utile. Quindi l'effetto complessivo è di deresponsabilizzazione. Il risultato sembra un po' distorcere i veri orientamenti dell'elettorato. E poi dice, nel caso italiano, aggiunge Pane Bianco, c'è anche l'aggravante che per caratteristiche della nostra cultura politica, così scrive, a noi in genere, a noi italiani, non interessa conoscere le posizioni su questo o su quell'argomento del candidato che votiamo, ci interessa solo sapere a quale schieramento appartenga. Una frase forse un po' tranchant, ma certo non infondata nel caso delle elezioni europee. E da tutto questo Pane Bianco deduce che l'elezione diretta del Parlamento europeo è figlia di un bel sogno, il sogno federalista, l'idea degli Stati Uniti d'Europa. Però la distanza, la forbice fra la realtà dell'Unione Europea e il sogno è tale che forse bisognerebbe cominciare a prenderne atto. Il Parlamento Europeo ha visto crescere nel tempo i suoi poteri e le sue prerogative, però resta e resterà anche in futuro diverso dai parlamenti nazionali. Quindi da tutto questo ne deriva che il nostro voto, il nostro modo di avvicinarci al voto per le europee non può che essere profondamente diverso da quello che dall'atteggiamento che abbiamo nei confronti delle elezioni politiche. E sempre di questioni di attualità parliamo, tornando su Famiglia Cristiana, perché è curioso notare come sia Famiglia Cristiana sia Panorama questa settimana in edicola affrontino in modo profondamente diverso lo stesso tema, il tema della immigrazione clandestina. Adriano Sansa, magistrato che tiene una rubrica appunto su Famiglia Cristiana, spiega che l'Italia non è affatto invasa dagli stranieri, scrive Sansa, la Gran Bretagna ha accolto e legalizzato il quintuplo di immigrati rispetto all'Italia, Francia e Germania poco meno, la Spagna quasi il doppio. Inoltre, continua Sansa, la media dell'Unione Europea è di 1,5 acquisizioni di cittadinanza ogni 1000 abitanti, ma in Svezia si arriva a 5,7 ogni 1000 abitanti, mentre in Italia siamo a 0,6, cioè neppure una acquisizione di cittadinanza, poco più che mezza in realtà, ogni 1000 abitanti. Non abbiamo, questa è la conclusione di Sansa, non abbiamo che progetti di chiusura difensiva, non un disegno di mantenimento degli impegni di cooperazione, di coraggiosa innovazione nello sviluppo. Allora dice, facciamo bene quando ci compiacciamo del nostro grande cuore, della nostra intelligenza politica. Beh, la conclusione di Sansa è ovviamente no, perché gestiamo più con un approccio emergenziale che magari concede l'approdo temporaneamente, ma che appunto, come avverte il titolo di questa rubrica, lascia poi l'ingiustizia, un'ingiustizia più profonda. Da un punto di vista molto diverso, scrive Bruno Vespa su Panorama sullo stesso tema, clandestini, troppo buonismo fa male. Bruno Vespa spiega su Panorama nella sua rubrica Fuori Porta, sia tolleranza e carità, però l'Italia non può risolvere da sola il problema dei disperati africani. La pietà deve andare d'accordo con il buonsenso. Dice, l'iniziativa di spingere i medici a denunciare il clandestino bisognoso di cure, ricorderete se ne era parlato a proposito di un disegno di legge, poi questa prospettiva è caduta, il clandestino appunto bisognoso di cure è un atto di inutile crudeltà sociale, oltre che una violazione del codice deontologico sanitario. Ma portare da 2 a 6 mesi la permanenza dei clandestini nei centri è il minimo che si possa fare per avere una qualche pur ridotta possibilità di restituire i migranti ai paesi d'origine. Quindi una posizione molto diversa a quella di Vespa, molto diversa da quella di Adriano Sansa che abbiamo visto su Famiglia Cristiana. E visto che parliamo in qualche modo di persone che hanno bisogno, allora vi segnalo un servizio che viene presentato questa settimana da Vita, il settimanale del non profit. C'è un servizio dedicato al 5 per 1000. Il 5 per 1000, lo sapete, è quella possibilità di destinare parte della propria imposta sui redditi alle associazioni che si sono candidate appunto a ricevere questo 5 per 1000. L'elenco completo delle associazioni, che sono molte, moltissime, è disponibile tra l'altro anche sul sito del Sole 24 Ore, quindi www.ilsole24ore.com. È interessante il lavoro che propone Vita, perché tra l'altro si presentano anche quali sono gli indirizzi a cui si sono rivolti i contribuenti più abbienti e quelli meno abbienti, cioè quelli che dichiarano redditi più alti e quelli che dichiarano invece i redditi più bassi. Allora, nella top 5, cioè nelle indicazioni di destinazione fatte dai contribuenti che hanno i redditi più alti, figura l'IEO, l'Istituto Europeo Oncologico, l'Istituto Nazionale dei Tumori, il San Raffaele, l'Ospedale Bambin Gesù e l'Istituto Gaslini. Quindi la sanità, diciamo, la fa da padrone nei redditi più alti. Nella parte invece delle destinazioni preferite dai redditi più bassi troviamo le ACLI, troviamo i Testimoni di Geova, troviamo la Coldiretti e l'Auser. Sono le destinazioni che invece vengono messe a confronto. Il 5 per 1000 tra l'altro si decide nel 5 per 1000 nel 730 nel modello unico. Questa è stagione di dichiarazioni e quindi mi è sembrato utile segnalarvelo da Vita di questa settimana. Con questo la puntata si conclude. Io ringrazio Valeria Bernardi per l'assistenza in regia, Vittoria Musini e Daniele Casagrande per il contributo al programma e vi do appuntamento a settimana prossima.